Essendo questa una storia antica, la voglio aprire con un prologo. Ed essendo io un'attrice, voglio aprire il prologo da guitta, rivolgendomi a voi, caro pubblico, e alla vostra gentile attenzione, perché abbiate la bontà di ascoltare tessiture di vite di donna, portate sulla scena per diletto e vanità. Sono storie silenziose e impertinenti, come il vento sotto la gonna, e come il vento sotto la gonna durano un attimo e fuggono via. Non cercate di capirne in essi, sono capricci di donna e spesso non ne hanno. Semplicemente ascoltateli e lasciatevi sedurre, come capricci di donna fanno. E lava, lava, lava, e suona la campana. E lava, lava, lava, il tocco del mio amore. Mia nonna stava a cantare sta canzone quel giorno. E lava, e lava, e lava. Stava a lavare i panni al lavatoio. E suona la campana. Quando a un certo punto da lontano vede correre incontro Gina, un'amica sua. Gina, ma guardala quella matta come corre. Gina, vieni qua, permette un attimo. L'hanno ammazzato, Rosè. Chi? Fabio, Fabio Ranucci, il figlio del carzolaro. Dice mi nonna che da ragazzina al prete, al catechismo, gli aveva insegnato una poesia dove c'era pure la Madonna che parlava. Meglio avere fatto che il cor m'avesse tratto che sulla croce tratto starce desciliato. Queste le parole della Madonna. E mi nonna mi raccontava sempre, sorridendo me lo raccontava, mi diceva: oh, ma lo sai, Giulie, io, ignorante come so, comparata a firmare da vecchia, che se me dettino non so scrive, in quel momento ho pensato alle parole della Madonna. Devo dire che mia nonna era bella come la Madonna. E lava, e lava, e lava. Nonna, mi racconti di quando hai incontrato nonno? Glielo chiedevo sempre a mia nonna, però quando mia madre in c'era che non voleva, dicevo che ero troppo piccola per sta storia. Ah, ma che gli racconti a sta ragazzina? Questa poi come cresce? E come cresce, come cresce, come te cresce. Si volevano bene mamma e nonna, e lo so che è normale che una madre e una figlia si vogliano bene, però il loro era un rapporto speciale, diverso. Quando si guardavano era come se si scambiassero un segreto, qualche cosa che sapevano solo loro. Chissà, forse perché mia madre era la figlia d'enamore morta ammazzato. Nonna, mi racconti di quando hai incontrato nonno? Un'altra volta, Giulie, ma non te sei stufata? Dai, nonna, te prego. Vabbè, Giulie, vieni qua, metti da sede. Erano tempi di guerra, erano tempi brutti. Certo, in paese si stava meglio che in città. Chi c'aveva l'orto, una gallina, due conigli, qualche cosa da magnà c'era sempre. Però vive in quella casa isolata, sola, con mia madre, un po' mi spaventava. Quella notte mia madre in c'era, che una cugina sua aveva partorito e lei l'era dovuta andare a assiste. Mi raccomando, Rosè, io torno domani mattina. Tu chiudete bene dentro e non apri a nessuno. E in caso di pericolo il fucile se tu sta. Comunque non te preoccupà, che per fortuna questa è ancora un posto tranquillo. E poi prima di uscire mi guardò e mi disse una cosa che non mi aveva detto mai. Mi disse: ah, Rosì, ti sei proprio fatta donna. Dai, nonna, continua. Oh, qua mia nonna si fermava sempre, però poi continuava. S'era fatta sera e io mi ero appena messa a letto, quando all'improvviso sento bussa la porta. Non te dico che corpo m'è preso. Mi arzo de corsa, piglio il fucile, scendo talmente piano che al momenti manco respiro. Guardo dallo spioncino e chi te vedo? Era nonno, era nonno, era nonno. Sì, Giulie, era nonno, bello e giovane e con due occhi neri e spaventati come il vento. Chi sei? So Fabio, Fabio Ranucci, il figlio del carzolaro. Per carità, aprite. Sapevo che Salvatore il carzolaro c'aveva un figlio che anni, un paio d'anni addietro se n'era nato a Roma e che al paese non s'era fatto vedere più. Con chi sei? So solo e so ferito. Ve prego, aprite. Lo guardavo dallo spioncino mentre parlava. E quella notte, in quel momento, mentre tuo nonno mi chiedeva aiuto, ho sentito una verità che mi ha accompagnato per tutta la vita. Non è la debolezza, c'è dalle tentazioni. A volte ci sono tentazioni così terribili che ci vuole forza e coraggio per abbandonarcisi. E a quell'occhio, Giulia, in un attimo, a quell'occhio io mi ci sono abbandonata. Entra, ma se fai scherzi te sparo, hai capito? Sì, grazie. L'ho fatto entrare, gli ho lavato la ferita che c'aveva al fianco, gliel'ho affasciata. E quando si è calmato gli ho dato da mangiare un pezzo di pane e un po' di formaggio. Chissà da quant'era che non mangiava. Ma che gli era successo? E perché è venuto a casa tua invece d'annare da suo padre? Non gli ho chiesto, Giulie. A quei tempi ste domande non se facevano. Lui però una cosa me la chiese. Come te chiami? Rosetta. Stanotte puoi dormire nel granaio. Mia madre torna domani mattina, non te deve far vede. Va bene. All'alba era già scomparso. Poi è passato un inverno, mia madre è morta e io sono rimasta da sola in vive quella casa. Tutti mi dicevano: Rosè, lasciala, oppure sposate. Ma a me, de sposamme, non mannava. E d'annammene manco. Non lo so, Giulie, quella era la casa di mia madre, di mio padre. Era un pezzo di famiglia, a me non mannava d'annammene via. E poi una notte mi risento bussa alla porta. Chi è? So Fabio, Fabio Ranucci, il fio del Carzolaro. Ma tu sempre de notte devi venire. De giorno non posso. Rosè, apri. Vieni, mettete a sede che ti do un pezzo di pane e formaggio. C'ho pure un po' di minestra, se non c'è prescia te la scallo. No, Rosè, non sono venuto per questo. Sono venuto per ringraziarti. Tiè. E mi diede una catenina. Fina come una tela di ragno. Prendila, Rosè. Non è tanto, ma è tutto quello che c'ho. Se quella notte in cerite e si azzittì, pensieroso, che quasi mi pareva che se stava a mettere a piagne. Allora ho fatto quello che avrei dovuto fare quella notte, quando l'ho visto con quegli occhi neri e disperati come il vento. L'ho baciato e ci ho fatto l'amore. Senza sapere niente, senza voler niente. Amore che chiede, non è amore. Può essere un sacco di altre cose, eh? Può essere bisogno, insicurezza, necessità. Ma non può essere amore. Si ama solo se non si chiede niente. Dopo quella notte, dice mia nonna che mio nonno ci tornò spesso a trovarla, ma sempre in segreto, nel buio. Non ho mai saputo da che si nascondeva. In paese, capirai, si diceva di tutto: che era diventato fascista e non si voleva far vedere da suo padre, oppure che era un partigiano e si doveva nascondere. Io non glielo ho mai chiesto. E poi, che differenza faceva per me? Io la guerra non l'ho mai capita, perché non l'ho mai saputa fa, né per le cause giuste né per quelle sbagliate. E soprattutto non ho mai capito se c'è davvero una causa giusta per ammazzare qualcuno. Boh, io sapevo fa solo l'amore. Eppure adesso, che so vecchia, che ho capelli bianchi e che le mani mi tremeno, so fa solo l'amore. Dice mia nonna che mio nonno ci hanno spesso a trovarla, sempre di notte, fino a quel giorno al lavatoio. Gina, ma guardala come corre quella matta. Gina, vieni qua, fermate un attimo. L'hanno ammazzato, Rosè. Chi? Fabio, Fabio Ranucci, il fio del Carzolaro. Ti piace quando ti racconto di tuo nonno, Giulie? Sì, nonna, tanto. Adesso però lasciami sola, che so stracca e me voglio riposare un attimo. Sorrise, chiuse gli occhi e non le riaprì più. Da quel giorno so io a raccontarla sta storia, però a volte gli vorrei cambiare finale, vorrei che accorregli incontro quel giorno al lavatoio, non fosse Gina l'amica sua, Ma nonno Fabio, vorrei che gli corresse incontro, l'abbracciasse e la portasse a fa l'unica cosa che mio nonno sapeva fa. E lava, e lava, e lava, e suona la campana. Come ti chiami? Che domanda sciocca! Cos'è un nome? Quella che noi chiamiamo rosa, anche con un altro nome, avrebbe il suo profumo. Eh già. E allora te ne faccio un'altra di domanda, una per cui Shakespeare non abbia mai pensato la risposta. Vai. Tu, ragazzo senza nome, lo vuoi fare l'amore con me? Oh, finalmente una domanda sensata. E la risposta, mia dolce signorina, è sì. Io però non l'ho fatto mai, neanche io. Questa è la storia di mia madre, Margherita, ma sta parte è la fine. Ricominciamo dall'inizio, no? Da quando mia madre era ancora bambina. Ricominciamo da nonna. Margherita, bella, ti piace sto giardino? Da oggi è nostro. È grande, mamma! Questa è la stazione ferroviaria, lì ci passa il treno. Pensa, Margherita, il treno. Ciuf ciuf, ciuf ciuf. Questa è la sala d'aspetto, la dovemo tenere pulita. E sopra ci sono le stanze nostre, Margherita, c'è casa. Che bello, mamma! Dovemo pure accendere il lume per segnalare la stazione ai treni di notte e a quello delle 5 del mattino. Qua la biglietteria non c'è sta, non ci sono controllori, non c'è nessuno. Ci siamo solo noi. Noi e il treno. Il treno! Ciuf ciuf! E io e mia madre siamo cresciute lì, con sto treno che ci correva accanto. Solo che all'epoca, da lì, dal treno, insieme ai viaggiatori, ci scendevano insieme anche le notizie del mondo. Rose! Dimmi, Fernà. Lo sai che hanno inventato un apparecchio nuovo? Si chiama televisione. Ah sì? E che fa? Dice che se succede una cosa, che ne so, in America, e tu sta qua, la va a vedere. Sì, addirittura. Ma quante diavolerie si inventano? Rosè, che c'è, Gi? Giù, al paese, ha appena chiamato la tua cugina dalla Germania. Ah, ha detto che richiama alle 4. Ricordate di venire giù al telefono pubblico per quell'ora, eh? Ah, va bene, grazie, Gi. Rosè, dice che ci portano la luce. Sì, da mo che se vocifera, ma ste campagne non ci pensano mai. No, stavolta è vero, cominciano i lavori la settimana prossima. Ah, e questa è una bella notizia. Hai sentito, Margherita? Buttiamo il lume a gas. E poi le piccole grandi rivoluzioni. Rosè, la tua figlia comincia a essere grande. Eh sì. Ho sentito di una signora che cerca una ragazzetta per stare dietro alla casa. Che ne so, tenerla pulita, fargli un po' di pranzo, un po' di cena. Io ho pensato subito alla figlia tua. Se vuoi, ce la posso portare pure domani. No, Margherita, grazie. La mia figlia la manna a scuola. Io sono malapena firmamma, lei studia. E quanto gli piaceva a mia madre studiare, stava sempre col libro sulle mani. Un giorno era primavera e lei stava nel giardino e leggeva Saffo. La mela rosseggia sull'alto del ramo, alta sul ramo più alto, la dimenticarono i raccoglitori. No, non la dimenticarono, non poterono raggiungerla. Sì, tu leggi, studi, fai compiti, ma che esiste tutto un mondo fuori da quei libri e fuori da casa tua. L'hai scoperto? Che mentre studi, declami, ci sono persone che si interrogano sulla guerra del Vietnam. Tu l'hai scoperto? No. Mia madre non l'aveva scoperto. A parlare era stato un uomo di passaggio, probabilmente lontano parente di qualcuno giù in paese. Però ste parole, dette così da un uomo di passaggio, a mia madre la colpirono profondamente. Era come se qualcuno gli avesse preso i libri e gliel'avessero rovesciati tutti a testa in giù. Improvvisamente s'accorse che la vita le scorreva accanto, impetuosa e inesorabile, esattamente come il treno vicino a cui era cresciuta. Così, quell'estate, su quel treno, ci salì. la storia o la fai o ti travolge, diceva sempre mia madre. Oh, se vede che sarà stufata di ruzzolà. Son salita su quel treno, un bagaglio pieno pieno di sogni e desideri, che lo so diverranno tutti veri. Dice mia madre che il viaggio all'epoca dal paese a Roma erano 2 ore, le 2 ore più lunghe della vita sua. Son scesa da quel treno, il bagaglio ancora pieno di sogni e desideri che vorrei diventassero veri. Ho fatto tante lotte, ho rischiato pure le botte, son scesa nelle piazze a gridar forte con altre pazze, né puttane né madonne, finalmente sono donne. Con gli operai ho combattuto contro la guerra, ho protestato tutto quello che ho potuto per cambiare il vecchio stato, ve lo giuro a cuor battuto, veramente l'ho attuato. L'unica cosa che non aveva ancora fatto mia madre in quegli anni era l'amore. Vi prego, silenzio, un attimo di attenzione! Il 21 è indetta una manifestazione per il diritto degli operai alle 150 ore. Dobbiamo essere tutti uniti, tutti e tutti, manifestare tutti insieme, operai e studenti! Oi, che c'è? Ti piace quello? Quello chi? Ma lui, quello che parla! Ma come fa a piacermi? Non so neanche come si chiama. Sei una noia e uno non è divertente, quell'altro fa troppo l'intellettuale, questo non sai come si chiama. La verità è che sei borghese. Sì, sì, sfotti, sfotti. Io però intanto ho il coraggio di essere quella che sono, mentre tu, cara, ti vergogni di ascoltare Battisti in pubblico. Non è vero. Motocicletta, ta tararara, zitta, 10 HP, ta tararara, e corre, corre, corre, la locomo, ta tararara, e corre, corre, corre, sempre più, ta tararara, e con l'ultimo suo grido di anni, mi costa una vita, per niente la da shh. Hai visto? È pure antipatico. Senti, stasera viene a prendermi mio cugino. Se vuoi, te lo presento. Come si chiama? Te lo dico se vieni. Antipatica. Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi. La rivoluzione non si vota, si fa. Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi. Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi. Che fai, vieni? Borghesi! Dove? Che mesi? A casa mia c'è mio cugino a cena. Ancora pochi mesi. Non lo so. Come hai detto che si chiama? Te lo dico se vieni. Fascisti, borghesi. Non è che non voglia conoscerlo, ma che a volte esci con uno, no? E magari ti piace pure, ma poi esci con lui un'altra volta e senti quasi il dovere morale di dargliela. L'immaginazione al potere! Io non voglio trovarmi in questa situazione. Ma come? Stiamo qua, lottiamo perché tutti quanti abbiano gli stessi diritti, perché ci sia parità tra uomo e donna! E tu mi fai questi discorsi? El pueblo unido, jamás será vencido! Io sto qui perché tutti abbiano la stessa possibilità di essere e fare quello che vogliono, anche quella di dire no! El pueblo unido, quanto sei borghese! Motocicletta, ta tararara! canta, canta pure, tanto con tutto questo casino non ti sente nessuno. El pueblo unido jamás será vencido, ta tararara. El pueblo unido, ta tararara, jamás será vencido. L'unica cosa che mia madre non aveva fatto in quegli anni era l'amore. E poi gli anni 60 sono finiti. Vieni qui, nasconditi! Lasciami! Qui sotto, ho detto! Shh, tranquilla. Tranquilla. Mia madre e mio padre si tennero abbracciati a lungo. Ma poi, quando finalmente mia madre riuscì a guardare in faccia mio padre, vide che negli occhi c'aveva ancora la speranza. Dice mia madre che da quel giorno ci andò spesso a cercarlo mio padre, in tutte le barricate che trovava, e ce n'erano tante. Ho girato per il mondo, l'ho visto andare a fondo, ed ora che sono stanca e che casa un po' mi manca, io risalgo sul mio treno, sul mio treno. Vieni, nasconditi qui. Tu. Certo che dopo Bologna nelle stazioni c'è sempre un'aria tesa. Guarda, guarda quella signora come si stringe la bambina. E quel signore là fa finta di leggere il giornale, invece controlla tutti, scruta tutti. Eh già. Senti, ma come ti chiami? Che domanda sciocca. Cos'è un nome? Quella che noi chiamiamo Rosa, anche con un altro nome, avrebbe il suo profumo. Eh già. E allora te ne faccio un'altra di domanda, una per cui Shakespeare non abbia mai pensato la risposta. Vai, tu, ragazzo senza nome, lo vuoi fare l'amore con me? Oh, finalmente una domanda sensata, e la risposta, mia dolce signorina, è sì. Io però non l'ho fatto mai, neanche io. Alla stazione a mia nonna passò uno sguardo. Mia madre era tornata a casa con la speranza. Vedi! Corri! Ehi! Vado io addosso! Ecco! Ecco! Ci si risveglia nella dittatura. Questo è il mio tempo. Cioè, il nostro tempo. In tre generazioni non è cambiato niente. Tranne una cosa. Noi donne. Le donne sì, che siamo profondamente diverse. Ciao, mi chiamo Tania e so ballare, cantare e recitare. Sì, ma qua cercano una stenografa. Mi chiamo Tania e so ballare, cantare e stenografare. Ah, sai chi è il capo del personale? No, illuminami. Un uomo. È un uomo che assumi se gli piaci. E gli piaci se sei magra, prosperosa, con le labbra carnose e giovane. Va bene, l'ho capito, ma tu qua devi saper stenografare. Sai quando uno parla veloce, veloce, veloce e tu scrivi tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. Una volta che ti assumono il lavoro lo impari. E poi quando un uomo vede il mio décolleté a parlare veloce non ce la fa. Ho capito, va? Me ne vado. Ma no, fermati! Per tutte c'è speranza, la bellezza, il fascino, la seduttività. Te le puoi comprare? Conosco una beauty farm, Always Shining, che fa miracoli. Ci ha mandato anche lei e guardala com'è bella adesso. Uh-huh. E io ci ha mandato lei, e io lei, e io lei, io lei. Io invece sono andata alla More Than Shining. Pensi che il posto sia tuo? Ah, perché hai una settima? Ah, E io domani mi vado a fare un'ottava, e io una nona, e io una decima, e io un'undicesima. Basta, ragazze, calmatevi, siete adulte. E poi, tanto il posto è mio, ho una quinta, ma di anni ne ho 25. E io 23, io 21, io 20, io 18, io 16. Ragazze, basta, che più in là si rischia la galera, eh? Tranquilla, cambiamo la legge! Io mi devo salvare da tutto questo. Quello. Quello chi? Il ragazzo della piscina. L'ho appena notato. T'ho incontrato l'altra mattina, uscivi bagnato dalla piscina, avevi addosso un asciugamano che poi distratto lanciavi lontano. Il lenzuolo di nonna. Aiuto, ve prego, aprite, ve prego, aiuto, aprite. Chi sei? So Fabio, Fabio Ranucci. Chi? So io, so il ragazzo della piscina. Ve prego, aprite. Ma tu, sempre solo con l'asciugamano, devi venire. Vestito non posso. Giulie, apri. Vieni, mettete a sede, che ti do un pezzo di pane e un po' di formaggio. C'ho pure un po' di minestra, se non c'è prescia te la scallo. No, Giulie, non sono venuto per questo. Sono venuto per ringraziarti. Tiè. Grazie! I libri di mamma. Come ti chiami? Che domanda sciocca. Cos'è un nome, quella che noi chiamiamo rosa, anche con un altro nome? Avrebbe il suo profumo. Eh già. E allora te ne faccio un'altra di domanda, una per cui Shakespeare non abbia mai pensato la risposta. Vai. Tu, ragazzo senza nome, perché indossi sempre solo un asciugamano? Oh, finalmente una domanda sensata. E la risposta è: non lo so. Io però non l'ho fatto mai. Neanche io. Circo Mare Teatro ti invita a mettere mi piace sulla sua nuova pagina Generazioni. Gruppo Danza, la lezione con Marta è confermata alle 16:30. Sabrina, vieni a cena da me stasera? Compra la berlina ultimo modello, è questa la vita che sogni. Shampoo, shampoo, il look aggressivo che conta. Con noi sei sempre connesso, se non sei in, sei out, se non sei hot o cool, sei un big flop. Sei una sigaretta. Con la tua mano la tenevi stretta, la respiravi così dolcemente che ho cominciato a viaggiar con la mente. Immaginavo di tenerti stretto e con un bacio di spingerti a letto, poi sussurrarti senza pudore quel che avrei fatto di te con ardore. Siamo una generazione che ha paura del presente. Sterilizziamo tutto. Le mani, i vestiti, la casa, i sentimenti, noi. Mi chiedo se la troveremo la forza, che pure ce l'abbiamo nei geni, di vivere coraggiosamente e con speranza. Voglio tenerti qui tutta la notte e disperarti di baci e carezze. Voglio tenerti qui per delle ore e consumarti fino al dolore. Pronto? Sergio? Sergio chi? Ah, mi hai visto in piscina. Sei quello dell'asciugamano. Sì, sì, mi ricordo di te. Sì, io sono quella gonna un po' strana. Era di mia nonna. No, era un po' diversa. Poi mia madre l'ha tinta quando era giovane lei. Non lo sai che ce l'ho addosso pure adesso? Come? Sabato? Sì, perché no? Se queste storie non vi hanno divertito, dimenticate subito il loro ordito. Pensate che un sogno sia stato e che con fantasmi abbiamo scherzato. Ricordate che in fondo nulla realmente esiste e di tutte le cose viste, dal giorno in cui siete nati a quello in cui siete arrivati, resta solo un'ombra vana, del ricordo la membrana. Quindi non andate appresso al vento, non perdete tempo, non andate appresso al vento, ai venti senza onore, agenti senza valore. È il momento di fare cose importanti, gesti assai eclatanti che cambiano il mondo e lo sconvolgono dal profondo. Perciò le mani in fretta unite e di grazia applaudite.